Taras полтора магазина, место Турецкой Кутрицы, следующие услуги. Курьерская доставка по СПб и Ленобласти. Курьерская доставка по России. Сканирование, копирование и распечатка документов. Услуги хранения, отправка документов в почту. Понедельник, пятница с 9 до 21, суббота с 10 до 18. Адрес: улица Железнодорожная, дом 9, автоцентр «Прогресс». Вход со двора. На вопрос отвечаем в сутки. 11-922-7827. Вас приветствует магазин радиостанции. Предлагаем вам рации и антенны по низким ценам, а также отремонтируем вашу радиостанцию и раскроем антенну. Даем гарантии на оборудование и выполненные работы. Шушаров, около магазина «Лента», Турецкая Турма, индекс 78. Для упрощения и ускорения документа оборота предлагаем следующие услуги. Курьерская доставка по СПб и Ленобласти. Курьерская доставка по России. Сканирование, копирование и распечатка документов. Услуги хранения, отправка документов по России. Адрес: улица Железнодорожная, дом 9, автоцентр «Прогресс». Вход со двора. На вопросы отвечаем только по телефону. 8-911-922-7827. 8-911-922-7827. C'è qualcuno qua? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? No, ehi cazzo! E perché? Troppo, Cazzo! Hola! E che cazzo è successo? È successo qua? Hola. Non è manco. No, guarda, no, che cazzo. Allora, lo scala, beh. Buongiorno Macari, buongiorno. Buongiorno, buenas domenica. Buono domingo. Buona domingo. QSL, beh, Gianni, come sa va? Sa va bene? Eia. Tutto bene per adesso. Tutto bene. Bene, sto uscendo di radio con quell'apparecchio piccolino che sto usando. Quello piccolino sto usandomi. Un figurone, Natali, un figurone. Cazzo, tu mi fai come? Io sono commosso, eh. Oh, yeah. Va bene. Al 100%, un figurone. Cava. Come sono della mia radio? Va bene, Natali. Ma è buono oppure distorce per caso? No, non distorce, è buona la radio. Bene, ieri mi sono accorto, c'avevo lo spinotto del microfono che non era ben infilato ed avvitato. Temevo che creasse qualche problema, e invece no, dai. Va bene, va bene. Poco fa. Tre quarti d'ora fa sono. Ho preso il tabacco con le cartine. Ho dato una sbirciata all'antenna. Ma quella è la mia. Eia. È sempre quella, e io ce l'ho qua nuova da piazzare. Beh, c'è la bobina proprio a vista, si vede proprio chiara, limpida. Ehi, ma lì dentro entra l'acqua, dove c'è quel coso trasparente? Si viene ad Eva Candubiuvi e mi manda l'antenna in corto. Ho capito. I soliti difetti di fabbricazione e di progettazione. Non l'ha fatto solo a me, no. Una uguale a questa ce l'avevo in campagna. Quella lì addirittura la salsedine, il cavo in terra ho trovato. Si è marcita la presa per il PL. E mi ne farà drugare in terra. Hola, mi sentite? Sì signore. Buenas domingo a tu. Cappa, c'è qualcosa che non va, cazzo, questo impianto. Porca puttana. Ora non rosmetto che non funziona niente. Ciao Antonio, buongiorno. Buongiorno, c'è qualcosa che non va. Babà, e cosa hai combinato? Io niente, ho il rosmetro che non funziona o c'è qualcosa, no, non è possibile. Ora. Oia, il rosmetro birichino. Oia, Natalia, stavo dicendo, ma la bobina non è sigillata perfettamente, com'è la questione? Cioè non è fatto proprio la coda di gatto. Bianco per me, dai, ci sentiamo. Ok, Antu. Se il rosmetro viene, te lo pigli da qua. Usi e poi me lo riporti. Prenderò il tuo, Natali, però da lì non se ne comprendi nulla. Al limite vieni qua, lo prendi e poi me lo riporti. Lo usi a vedere se c'hai stazionario. Ma cosa c'è? Stazionarie? A cosa di questo sembrerebbe sì. E da bussa basciane, come te c'è la storia, no? Ora, dopo controllo una cosa, se cosa c'è, dai, fatto. Veneno che ti rubigli un rosmetro, se ti sirvi. Ma è quelle antenne che sono difettose, la Ringo stai dicendo. Ma è strano però. Guarda che non sia lo spezzone messo male. No, è a posto, gliel'ho rifatto. A voi sta rende. Che ti varia un raggio, secondo me va che cos'è il suo rosmetro. Ascolta, dopo passo a te, dai. Adesso, perché non è possibile, se ci c'erano tante stazioni avrebbe fischiato. Mette, a voi fa rende, secondo me c'è qualcosa, la bobina qualcosa. Non è possibile. Ma io ti ascolto bene, guarda, se non è l'antenna, ma cosa che antenne sono difettosi, come te chiami? Addirittura a Marco Scorpio, a proposito Gianni, a Marco Scorpio lo stesso ce l'aveva uguale e gli faceva lo stesso difetto della mia, gli entrava l'acqua dentro la bobina da sopra, da un divero gommino. Dai Bianco, va a mangiare e poi passo a te. Va bene. Vieni che ti ruto giro un rosmetro. E questo è tranquillo. Ho capito, Natalia. Vabbè. Difetto di fabbricazione, dai. Non è stata progettata bene, dai. Oh, materiale debole deve essere. Se ti sto dicendo che a me, quella che avevo in campagna, l'ho dovuta buttare via, che mi si è marcita la presa del PL. Dimmi tu. Vabbè. Succede. Oh, yeah. Non ne ha tanto, ne esce una. Oi. No, vabbè. Quella che io è piccolina, però continua a funzionare bene, dai. ha pigliato roba di cutturata qualche settimana fa con quel vento allucinante, sembrava una biscia, però è ancora in piedi, dai. Figura, che questa si potrebbe aggiustare, mi si potrebbe, basta quando me la scendo che la vulcanizzo e non entra più Eva. Lo sai, mi vuoi fare così, perché non ne ho stazionari, adesso non ne ho, ma si piove poco poco, mi si viene arriva dell'antenna e mi salgo la stazionaria a 2,5. Se la bobina a bagnomaria, oh ya. Yeah. Non dire la buffonente, proprio a bagnomaria anda, me la manda in corto la bobina. Buongiorno e buona domenica, cambio. Avanti, avanti. Buongiorno, buongiorno a tutti e buona domenica da Giovanni. Ciao Giovanni, ti sento molto più forte, cosa hai combinato? Meda Nidda. Ah, sì, barra mobile? Positivo. Bene Meda, ti ascolto forte, dai, forte e chiaro, c'è come Natalino, avanti Natalino. Aspetta, sto facendo una cosa urgente. Eia, eia. Bene Meda, oia. Barra mobile, Meda Nidda, come mi ascolti Giovanni? Sono scala. Bene Meda, e la radio com'è? Distorce oppure è buona? No, no, buona, buona, buonissima. Perfetto. Oia, oia. Tra un po' mi sa che andiamo a preparare qualcosa da mettere sotto i denti. Mi dici se mi senti ugualmente? Ti ho sovrappopolato, dimmi. Aspetta un secondo solo, aspetta. A posto, a posto. Eia, eia. No, poco fa ti ho sovramodulato, cosa mi stavi dicendo? Volevo fare una prova a radio, a vedere se mi sentivi bene. Aspetta di mettere gli occhiali che guardi il segnale, dai. Parla Giovanni, che ti sento, a vedere quanto mi arrivi. Giovanni, Giovanni. Deve essere non mi sente, bubù. Sì, io ti sentivo, sì. E quando attaccano l'amico non esco più. E tu non lo attaccare, Santiago 9, Radio 5. Va bene, cazzo, ma scusa, o non sta funzionando, qualche cosa deve avere, perché è strano. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Se no non esci, quando lo attacchi vuol dire o l'hai attaccato alla rovescio. No, l'ha attaccato bene, l'ha attaccato bene. Giovanni, qua l'ultimo passaggio a Santiago 9. Lo so, vabbè, qui siamo vicinissimi, siamo. Ma adesso sei liscio? Sì, liscio, anche perché se lo attacco non esco, ho visto che non esco. Oioia. Andavè. Avanti, Natali. Giovanni, a me come mi senti lì? Molto bene ti sento, Natali, ti sento molto bene. Ti ripresenta che sono a Preda Nidda, Ah, capo, allora siamo vicini. Perché io ho l'antenna bassa, capito là? Cosa? Quando me la cambio già ti dovrò sentire più bene, la devo mettere più in alto. Attenzione KK, mi sentite? Già lo sentiamo a lei. K. Cosa strana, ragazzi. È pur Wanda. E anche picchi positivi, Antu. A me mi sembra che quel rosmetro sia da buttare. Non mi sembra raddo. Ah, boh, non lo so questo io. Bisogna vedere. Che c'è del cuore? Perché non è possibile. Io vedo che c'è anche picchi positivi, quindi l'antenna non può sì. Allora, tocca a sopra e facettarla. C'ho qualche amico per Danietta, mi sente lui? Penso sì, Giovanni, prova a chiamarlo. Mi sento bene, a tu. Forte sto arrivando in quella zona. 7-8, sì, qua. Ah, KK. Ma è macchina lui, mi? È macchina Giovanni. Buon Natale, cosa vuoi che ti dica? Vedo che è... la massima potenza è la sostenuta. Adesso si è aumentato molto di segnale, si è aumentato molto. Tipo, adesso lo mettiamo come era prima, là, che non voglio far scoppiare l'apparecchio, questo che è strano. Ma io vedo che c'è anche i picchi positivi, chiedilo a Gianni Lubrofetta a vedere come ti sta ricevendo. Arrivi forte, arrivi, boh. No. Chi sa che marasushi è? Gianni, bene, mi senti? Ehi Anton, anche tu un figurone. C'era qualcuno basso basso che voleva entrare, boh. Andavè, ho preso un abbaglio. Dai ragazzi, io vi saluto, vado a prepararmi la pappa, dai. Ci sentiamo alle prossime, ok? Buona carica a tutti e ci aggiorniamo. Ciao ciao e buon pranzo a tutti, ciao ciao. Anche a lei, ciao Gianni. Beh, tu visi ti hai abbigliato, ma ti tocca fare, ti hai abbigliato il viso di magna, ma ti tocca cucinarti il bu. Succede. Allora, ciao, buon pranzo a tutti, ciao ciao. Ciao Gianni, ciao. Ciao Gianni, ci risentiamo alle prossime. Ho buscato un 747, Natali. Ah, capa, belli quelli lì sono. Era di babbo, era. Ah, ma me lo piazzo io. Certo. Non mi parlo tu, vero? È nuovo. Quelli sono belli. Mi collegheggio, riviri. Mi collegheggio e me lo piazzo. Sai che stanno in questi fili, boh. Quando ridi era nei civili, la verità. Che cazzo gli ho messo a fare? Anda bene, Meda. Patrimonio artistico dell'isola del Mediterraneo. Ma se l'antenna non mi sembra difettosa, perché c'hai anche picchi positivi mi e arrivi forte di segnale. Ma infatti mi va strana la cosa, perché non è possibile, assolutamente, cioè, se no ai nocchi, se metto la antenna che c'è stazionare mi avrucio. Infatti, se c'è stazionare è subito fischia. Non è strana la cosa. Oppure sì che sia lo spezzone, oppure che non sia il rosmetro che non vada bene. No, proviamo un 747 da voi. Il cavagava. Vabbè, ci sentiamo allora, Antu. Io me ne passo in QRT. Ciao Natali, ce la risentiamo. Ciao, ciao. Ciao Natalino, ciao. Ciao Giova, alle prossime. Che guascio. Hola.